e all'inmila e lì gestisci una lanciano di mia 24 mattino. Vabbè, caro ascoltatore, eccoci qua. Sono le 7:21 minuti. La 181esima settimana decisiva per l'abolizione delle province nel suo cuore, nel pieno della sua vitalità. E allora siamo pronti a leggere i giornali, a capire che cosa ci raccontano. Andiamo. Oh, non sanno di che parlare i giornali, eh. È mercoledì 19 ottobre, intanto i titoli. Il Sole 24 Ore, l'inflazione rilancia le borse. Questo è il titolo di prima pagina, con Milano che chiude ieri al più 2%, migliore risultato d'Europa grazie a banche e assicurazioni. Mentre Repubblica ha questo titolo sulla manovra, l'Unione Europea prepara il richiamo. È questa la lettera che è già pronta, dicono a Bruxelles, secondo Repubblica. Il giornale, la guerra dei contanti. Mentre poi una serie di titoli sul viaggio di Renzi da Obama. Riforme Obama con Renzi. Obama Renzi più impegno in Libia, questo è il titolo della Stampa. Ah, quello che ho letto invece Obama con Renzi è il Corriere della Sera. Per il Messaggero, e qui si è nei titoli un po' forse un po' esagerati, referendum Obama vota sì, e anche il Giorno Obama vota sì. E non sapevo, ho scoperto questa mattina che Obama vota in Italia. Libero invece è molto critico, qui i titoli come dire esagerati dall'altra parte. Tu vuoi fa l'americano, questo è il titolo di Libero, mentre il Fatto Quotidiano mette la foto di Renzi che ride con Obama, giustamente, alla Casa Bianca, e il Fatto titola più licenziati, più poveri, più evasori, che c'è da ridere? E la Verità invece, scopri di quali banche ti puoi fidare, come difendere i risparmi, questo è il titolo di prima pagina, che è un po' anche un consiglio per i lettori. Il titolo di apertura d'Avvenire invece è Mosul, doppia morsa, la guerra che c'è nel nord dell'Iraq, i jihadisti bloccano la fuga dalla città assediata. Ma voglio andare ad alcune segnalazioni veloci. Intanto la notizia che già c'era settimana scorsa e che ora riappare su Repubblica, del fatto che sta per passare la legge, oggi il voto alla Camera, poi al Senato, per le telecamere negli asili. Attenzione, perché è una notizia molto delicata, interessa molti milioni di italiani che portano i loro figli e le loro figlie agli asili. Come scrive però Cristina Nadotti su Repubblica in prima pagina, non sarà un grande fratello di asili e case di riposo, piuttosto un occhio discreto il cui sguardo orientato da regole ferree sarà a disposizione di chi se lo potrà permettere. Il grande sdegno per insegnanti e personale violenti, per bambini anziani picchiati e insultati, ha partorito una legge per l'installazione di videocamere in asili nido, scuole di infanzia, strutture socioassistenziali per disabili e anziani. Intanto le strutture pubbliche che vorranno montare le videocamere dovranno farlo a proprie spese, senza oneri per lo Stato. Poi, sia le strutture private sia quelle pubbliche potranno farlo solo previo accordo collettivo con le rappresentanze sindacali unitario o, in mancanza di consenso, con l'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro. E poi le telecamere riprenderanno immagini che non andranno mai ai genitori, ma solo ai pubblici ministeri. Così sono state superate le obiezioni sulla privacy. Questo è l'elemento, sono gli elementi essenziali. Ovviamente poi il provvedimento di legge è spiegato in pagina 1 e 20 di Repubblica, e vi invito a leggere lì per cercare di capire che cosa succede. A proposito di leggi, ce n'è invece un'altra che più che leggi, sentenze in questo caso, che fa discutere. Ne scrive Il Giorno a pagina 2 e 3, ne scrive Libero in prima pagina, ed è questa. Per la Verità Il Giorno lo mette anche come titolo di prima pagina: Unioni civili salva clandestini. È una notizia che riguarda una sentenza della Cassazione per un cittadino marocchino di Bologna, che sta a Bologna, condannato, deve scontare parte della pena residua, ed è stato espulso per questo, è clandestino, ma la Cassazione dice vive in una situazione di unione civile e quindi non può essere espulso. E Libero, in prima pagina con Filippo Facci, fa un commento: se l'immigrato convive non lo puoi più espellere. I nemici delle unioni civili questa volta avranno un formidabile asso nella manica per tornare ad attaccare la legge Cirinnà, cioè quella che appunto codifica le unioni civili, le convivenze di fatto. Niente di ideologico. Il rischio è che una massa di immigrati irregolari possa ricorrere a questa legge per evitare di essere espulsa dall'Italia, anche se si trovasse in carcere per gravi reati. Ieri infatti la Cassazione ha depositato una sentenza che ha tutta l'aria di voler fare giurisprudenza e dice che il contratto di convivenza già previsto dalla legge Cirinnà ha il potere di bloccare l'espulsione di immigrati che per esempio si trovino in galera e debbano scontare una pena residuale. Prima non era così, ma ora sì. Eccolo qua, se il clandestino convive non va espulso. Un immigrato in carcere vince il ricorso contro il foglio di via. Basta l'unione civile per avere la cittadinanza. E questo ovviamente suscita dibattito sui giornali anche polemiche. Spesso mi dicono e mi scrivono: ma qualcosa di positivo, una storia bella. Beh, una storia bella, anche se proviene da un fatto di cronaca nera, la racconta oggi Giusy Fasano a pagina 23 del Corriere della Sera. È la vicenda che riguarda un'uccisione che c'è stata a Verona qualche anno fa per una banale richiesta, una sigaretta, una risposta che non è stata gradita a un gruppo di 5 nazi skin che presero a botte e uccisero Nicola Tommasoli, 29 anni. Il bello di questa vicenda drammatica qual è? È la storia della mamma di questo ragazzo, Maria Annunciata Zamperini, ex insegnante. Insegno tolleranza ai giovani per mio figlio ucciso in strada. La madre di Nicola, che fu aggredito da nazi skin nel 2008 a Verona appunto per una sigaretta, racconta oggi al Corriere della Sera: è tutto nato da tutti quei biglietti che centinaia di persone misero nel punto in cui mio figlio fu ucciso. Un giorno portarono tutti questi biglietti a questa donna. E allora lei dice: io e mio marito decidemmo che cosa dovevamo fare. Abbiamo capito in quel punto che era arrivato il momento di scegliere. Potevamo chiuderci nel silenzio oppure cercare di trasformare tutto il dolore in qualcosa di positivo. E allora la storia di questa donna, Maria Annunciata, che è ora ha 70 anni, ha avuto una svolta. E ora insegna proprio ai ragazzi, e da ex insegnante le verrà anche facile, ma certo c'è tutto il carico dell'emozione ancora nel parlare di suo figlio e nel parlare di una vicenda che non è astratta ma concreta, riguarda la propria famiglia. Insegna ai ragazzi come essere tolleranti, anche se dice: mi fa sempre un certo effetto parlare di Nicola al passato, perché a me sembra di vederlo ancora accanto, di vederlo nella sua stanza, che ho lasciato così com'era. E tutte le volte che parla di lui si incrina la voce. Però, dice, devo insegnare ai ragazzi il senso della tolleranza a partire dalla vicenda di mio figlio. È una storia molto intensa che trovate a pagina 23 del Corriere della Sera. Ma eccoci qua, all'articolo che mi fa pinzare della giornata. In realtà mi fa anche un po' sorridere, perché sono queste storie di paese, quella raccontata da Libero a pagina 16, che hanno non so che un retrogusto di morbosità, di curiosità, di simpatia, anche nella lettura. C'entra un prete, c'entra una perpetua, c'entrano dei soldi spariti. Siamo a Spinea, in provincia di Venezia. Spariti il prete e 200.000 euro. E qui le voci dicono della perpetua che le avrebbe giocate alle slot machine. Ecco la cosa che mi fa incazzare dal momento, da una lettura così appassionata, anche simpatica, curiosa, diventa una lettura arrabbiata. Il don della parrocchia di Spinea non si vede da sabato, ha scritto al vescovo di Treviso: chiedo il permesso di allontanarmi per un periodo di riflessione. Ma sarebbero spariti anche 200.000 euro. E qualcuno giura di aver visto la perpetua di recente scorrazzare per le vie del borgo alle porte di Mestre con una macchina anche abbastanza lussuosa. E d'altronde si parla di quel vizietto che non riesce a tenere a freno, il gioco delle slot machine, un giallo che a Spinea si infittisce. Spariti il prete e i 200.000 euro, persi, giurano, dalla perpetua alle slot. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. Alessandro Milan, what else? Grazie, cara ascoltatrice, insomma, lo prendo come uno straordinario complimento. Allora, mandate le vostre sigle al 349-238-6666 via WhatsApp, in audio, come questa ascoltatrice, così si sente alla perfezione. Allora, Renzi da Obama. I giornali raccontano, alcuni anche con titoli forse un po' troppo enfatici, tipo Obama vota sì al referendum. Prima l'ho chiesto ovviamente con una domanda retorica e ironica, non risulta almeno al 19 ottobre che Obama possa votare al referendum italiano. Certo, Obama si è speso molto per Renzi perché la Casa Bianca punta alla stabilità, l'instabilità di governo, vede in Renzi il miglior alleato. Molti giornali fanno notare che vede in Renzi anche il miglior amico di Obama e il più fiero oppositore di Putin che c'è qui in Italia, e quindi questo nelle logiche internazionali di equilibri è un elemento fondamentale ovviamente per Washington. Comunque, la spinta di Obama per il sì al referendum, questo è il titolo di pagina 5 del Corriere della Sera, tifo Renzi, resti comunque vada. Nessun cataclisma se vince il no, dice anche Renzi. Scrive Giuseppe Sarcina, uno degli inviati, a Renzi forse sarebbe bastato l'appoggio politico sul sia referendum costituzionale, ma Obama si spinge oltre, tra battute in italiano, sorrisi e pacche sulle spalle, non ha esitazioni, gli Stati Uniti sostengono con forza le riforme di Renzi e sperano che questo processo non si interrompa col voto del 4 dicembre. Tifo per Matteo e dovrebbe restare in politica anche se vince il no. Poi ovviamente tralascio tutti gli articoli sulla cena, gli agnolotti, I love Sophia Loren di Obama, vabbè, è il colore di queste visite di Stato, c'è. Certo, invece è interessante ciò che Paolo Mastrolilli racconta in prima pagina della Stampa, lo troviamo anche sul Messaggero, questo retroscena, cioè che cosa si sono detti nei 90 minuti in cui hanno conversato lontano dalle telecamere Renzi e Obama. Ecco, per la Stampa, Obama chiede a Renzi più impegno in Libia. Questo è Paolo Mastrolilli. Dall'Italia ci servirà aiuto anche nella fase 2 della Libia. Usa il termine fase 2, l'autorevole fonte della Casa Bianca che parla dei deliverable, cioè le cose concrete su cui Roma e Washington devono lavorare insieme. Nella sua visita a Washington, scrive la Stampa, Renzi ha ricevuto un'investitura assoluta da parte di Obama, non solo come premier, che non dovrebbe mollare anche se perdesse il referendum, ma come leader su cui si può costruire il futuro dell'Europa. E allora Washington chiede il conto, qualcuno potrebbe dire. Sul piano militare l'Italia già da molto, con 300 soldati che hanno permesso la realizzazione dell'ospedale a Misurata o la base di Sigonella, che secondo fonti americane è già utilizzata a pieno. Ma anche la consolidata presenza dell'intelligence sul terreno fa molto, e tutto ciò è molto apprezzato dagli americani, che chiedono però ulteriori sforzi. Bisogna sostenere al-Sarraj, cioè il premier riconosciuto dall'ONU e quindi anche da noi, bisogna sostenere al-Sarraj con azioni militari ed economiche. Questo Obama avrebbe chiesto a Renzi, al di là appunto degli appoggi, delle pacche sulle spalle, eccetera. Venendo in Italia invece c'è la questione della manovra, il rapporto con l'Unione Europea. Gianni Trovati oggi lo spiega molto bene, dettagliato a pagina 1 e poi continua a pagina 6 del Sole 24 Ore. La cifra più importante del programma di bilancio italiano pubblicato è a pagina 35, scrive Trovati, recita meno 1,6%, è il deficit strutturale del 2017, cioè il risultato del bilancio pubblico al netto delle misure una tantum, e si trova a 4 decimali sopra l'1,2% di quest'anno. La trattativa con Bruxelles si concentrerà qui. Il ministro Padoan dice l'Unione Europea valuterà, ma siamo in regola, crescita Italia, le tasse permanenti, nessuna mancia. Più dei numeri complessivi influenzati dalle misure congiunturali, a misurare le prospettive della finanza pubblica è il dato strutturale. I controllori europei si aspettavano al massimo una replica del risultato 2016. Quindi il braccio di ferro con l'Unione Europea è sul deficit strutturale con questa cifra del 2017. Secondo Repubblica si spinge anche oltre con Alberto D'Argenio e Roberto Petrini, questo è il titolo di prima pagina, l'Unione Europea ha già pronta la lettera di richiamo all'Italia. La minaccia con fonti da Bruxelles è questa: il governo ha una settimana di tempo per cambiare la manovra, altrimenti riceverà una lettera dell'Unione Europea che è preludio alla bocciatura formale. Ieri Juncker, tramite canali riservati, ha fatto sapere a Renzi che non è nelle condizioni di far passare la legge di bilancio così come è stata notificata la Commissione, e dunque sono partite le trattative. Troppo elevato il deficit e oltretutto la composizione della manovra non permette di giustificare i numeri. Troppe una tantum, una stima sui costi che l'Italia sosterrà sui migranti esageratamente superiore a quella che si ottiene applicando i criteri europei. Insomma, alcune cose che non vanno. Secondo Repubblica, o l'Italia cambia registro o ci sarà la bocciatura. In tutto c'è la grande polemica, soprattutto per l'emersione del contante. Questa è la grande polemica sui giornali. La lotta al contante. A me ha molto colpito leggere questa cifra. Alessandro Galimberti lo scrive sul Sole, ma vedete qua il Messaggero. Il prelievo al 35%. Al 35% la sanatoria sul contante. Per carità, è vero che se uno ha 100.000 euro nel materasso e non li ha dichiarati, ha evaso il fisco, forse se li avesse dichiarati prima avrebbe pagato appunto più o meno questa cifra, ma farli emergere col 35%, 100.000 euro, ecco qua, Stato, 35.000 a te per questa emersione. Beh, è una percentuale non indifferente. Comunque, questo è, per Libero ci mancava la patrimoniale sui contanti, c'è il ministro Padoan che dice nessun condono, Repubblica che fa ancora notare che effettivamente siamo un paese in cui l'87% delle manovre, delle operazioni avvengono in contante, 87% sono discrete come cifre, e poi parla lui, parla Diego Armando Maradona. Eccolo qua, intervistato da Il Corriere della Sera, da Gianluca Abate, in intervista a pagina 15. Secondo me c'è anche un aiuto dell'avvocato, perché come ho detto prima, Maradona discetta di cifre, snocciola cifre, che sembra un commercialista più che un ex calciatore. Non chiamatelo condono Maradona, io ho pagato, è giusto che il fisco sia umano e trasparente con i cittadini, dopo tanti problemi anche la gente comune deve essere aiutata, parla così in favore della gente comune, lui certo non lo è, ma lui dice io non devo nulla, da oltre 25 anni mi addebitano ingiustamente una cartella da 40 milioni di euro con 35 milioni di interessi e sanzioni, per una ipotizzata violazione fiscale giudicata inesistente da tutti i giudici e comunque già tutta pagata dal Calcio Napoli col condono 2003, come ha dimostrato il mio avvocato Angelo Pisani. Nessuna legge può chiamarsi condono Maradona. Sarebbe una barzelletta. Se il Napoli ha già pagato tutto, mica posso fare un condono ogni volta che esce una legge solo perché mi chiamo Maradona. La verità non è questa, io non devo dare nulla, negli ultimi 20 anni gli sbagli ci sono stati da tutte le parti. Non auguro a nessuno di trovarsi nella mia posizione, non sarò mai avvantaggiato dal condono perché non ho bisogno di favori, insomma un Maradona che dice io non vi do nulla, di fronte addirittura alla domanda, a proposito, ma lei fece il gesto dell'ombrello, lo ricordate, nei confronti di Equitalia, io non mi pento di nulla, perché come tutte le persone in buona fede sanno, non ho mai fatto quel gesto. Ma come non ha mai fatto quel gesto? Ma c'è il video, Maradona. Lo so, ma se si guarda bene si capisce che ho fatto quel gesto tra me e me. Come a dire, questa volta non mi sono fatto fregare. Perché i dipendenti di Equitalia, all'aeroporto, mi perquisirono facendomi alzare la maglietta davanti a mia figlia, mortificandomi senza pietà. Insomma, il gesto dell'ombrello lo ha fatto tra sé e sé. Capito? Diego Armando Maradona. Eccolo qui, il Maradona del Sole 24 Ore, Mauro Meazza, nel senso della classe, della, dell'estro, della poesia, del sinistro magico. Eccolo, Mauro. Buongiorno, buongiorno. Tutto a posto col fisco, Ma non lo so, speriamo di sì. Non mi hanno scritto, ti hanno scritto? A me no. Neanche di te. Hai visto che adesso arriveranno anche gli SMS, è parte della manovra, ottimo. Appunto. Aspetta, no? Che spengo il cellulare. Sì, in trasmissione è meglio. Vabbè, sarà stata la mano de Dios, come dice lo stesso Maradona. L'ombrello de Dios, il braccio de Dios. Il braccio de Dios. Va bene, stiamo un attimo sulla manovra. Ti voglio segnalare che sul Sole 24 Ore ci sono anche le anticipazioni per quanto riguarda l'iperammortamento. Sì. Perché c'è il superammortamento e l'iperammortamento. Io adesso non ti voglio affaticare, ti dico solo che di fatto è uno sconto sulle imposte. Ti viene anche spiegato nella stessa pagina, peraltro, quanto risparmieranno le imprese con queste due misure. Stanno ancora però decidendo sulle categorie di beni. Delle cassette di sicurezza, insomma, di questo condono, emersione, voglio dire. Hai solo detto condono? Che... No, ma mi è sfuggito, perché l'ho detto ma a me stesso, scusami, ecco. l'ho detto a me stesso. Sì. Questo tipo di emersione, volevo dirti, che già stava anche nella voluntary disclosure numero 1, quella dell'anno scorso, ecco, viene riproposto con delle aliquote, delle percentuali diverse, quindi è tutto spiegato, insomma, oggi a pagina 9 sulle 24 ore. Già hai parlato dell'articolo di Gianni Trovati, me ne compiaccio, io ti segnalo un articolo da meditazione anche oggi sul libero mercato elettrico. Attenzione a non sottoscrivere contratti a vostra insaputa, lo spiega Claudio Gatti oggi sul Sole 24 Ore. Ci sono dei contratti sottoscritti all'insaputa del cliente che li sottoscrive, appunto. È una cosa molto poco edificante. E poi ti voglio parlare dei voucher. Tu dirai, ma insisti con questi voucher? Sì, perché... Vieni pagato a voucher? No, purtroppo no, ma perché magari per queste chiacchierate mattutine comunque potrei accettarli, ma ti voglio dire, sono cambiate le regole, ma non c'è l'SMS, c'è solo la mail, è tutto scritto in norme e tributi. Ma dovresti anche leggere i dati sulle assunzioni che riportiamo nelle prime pagine del Sole 24 Ore. Sì. Laddove vedrai che le assunzioni restano in saldo positivo, ma sono calate, calano quelle soprattutto di tipo stabile, e che ci sono stati venduti 96,6 milioni di voucher, lo spiega Giorgio Pogliotti oggi sul Sole 24 Ore. Bene, altro non ti vuol dire, per Radio Fisco segnalo il Focus, il supplemento oggi con il Sole 24 Ore dedicato alla revisione contabile. E poi sappi che tra oggi e domani potrebbero esserci le decisioni del TAR Lazio e del Tribunale Civile di Milano sul quesito referendario. Staremo a vedere nel frattempo, caro Alessandro. Traffico! Scioglilingua inglese. Three witches watch three watches. Which witch watch which watch? Ciao Milan. Ciao, ciao, ciao, caro ascoltatore. Allora, è tornato anche Silvio Berlusconi sul referendum con un'intervista al TG5, ha alzato il tiro sulla riforma, leggo il titolo di pagina 9 del Corriere della Sera, bocciamola, poi un testo condiviso, il ritorno di Berlusconi, che da molti era anche richiesto per dire un segnale preciso su qual è il suo no, per alcuni tentennante fino a questo momento. Vi segnalo... dal punto di vista dell'attualità internazionale, che anche il Corriere della Sera con Lorenzo Cremonesi segue il fronte avanzata dei Peshmerga per la conquista di Mosul in Iraq, l'avanzata dei soldati curdi, la difesa dell'ISIS a piccoli gruppi mentre i commando di Baghdad si preparano allo scontro casa per casa, è il racconto, reportage di Lorenzo Cremonesi inviato al fronte di Mosul sul Corriere della Sera, lo trovate a pagina 2 e 3. E questi sono assolutamente articoli che vi segnalo perché non ce ne sono molti anche di inviati che seguono da vicino tutta questa vicenda. Vi segnalo anche che cosa... Beh, intanto che alla Camera è entrato un cane, e non fate delle facili ironie, il cane meticcio Sogno l'ha portato Michela Brambilla, che da sempre si batte per i diritti degli animali. L'ha portato per la prima volta alla Camera dei Deputati, la prima volta di un cane alla Camera dei Deputati. Margherita Nebac ne racconta sul Corriere della Sera le facili ironie. Il primo cane entrato, bisogna valutare se sia la prima bestia entrata alla Camera dei Deputati. Ma questa si potrebbe fare come battuta anche per la redazione di Radio 24, per esempio. Mi metto in prima fila e mi autodenuncio. E allora, intanto c'è la questione che vi volevo segnalare invece di un libro che fa discutere, racconta oggi La Verità in prima pagina con Francesco Borgonovo, e è il libro scritto da un dottore che si chiama Richard Ablin, che ha avuto un grande merito nel passato, ha scoperto il PSA, quello che è il test fatto da milioni di persone nel mondo per verificare se c'è il rischio di un cancro alla prostata. Ebbene, lui stesso, questo Richard Ablin, ha scritto Il grande inganno sulla prostata. Lo screening PSA non serve a trovare il cancro alla prostata, però fa molti danni. Lui che ha scoperto la proteina rilevata all'esame oggi denuncia l'abuso di test, un disastro per la sanità pubblica. È un libro di cui parla oggi La Verità, un libro uscito in Italia e che sicuramente fa meditare. Certo, fa meditare anche il libro di Icardi, eh? Oggi Massimo Gramellini, il suo buongiorno in prima pagina della Stampa del Secolo XIX, non è male, sugli ultra del libro. Da quasi una settimana, scrive Gramellini, gli svedesi cercano di mettersi in contatto con Bob Dylan per comunicargli che ha vinto il Nobel, invano. Stremati dal suo silenzio, hanno ufficialmente smesso di inseguirlo. In una situazione ancora così sospesa, ci permettiamo di offrire ai parrucconi scandinavi il profilo di un candidato alternativo. Un giovane scrittore costretto a vivere sotto scorta, la cui libertà di parola è minacciata da una consorteria che intimidisce chiunque osi sfidarla. Come avete capito, parliamo di Mauro Icardi, centravanti dell'Inter, che a 23 anni ha sentito l'urgenza di scrivere la propria autobiografia. Per aver osato lanciare dalle sue pagine una sfida ai galantuomini della Curva Nord, il noto narratore sudamericano si ritrova ingabbiato in una vita d'inferno. Fuori casa con la scorta, dentro con la moglie Vandanara, una delle pochissime donne di cui non si sospetta nemmeno lontanamente che possa essere Elena Ferrante. Giurati di Stoccolma, se il dramma di quest'uomo non vi sembra già un motivo più che sufficiente per dargli il Nobel, eccovene un altro che scioglierà i vostri residui dubbi. Icardi? È il primo scrittore al mondo che sia mai riuscito a mettere un libro in mano agli ultra. Ma chi se ne frega!